Italia in controluce. Italia in controluce, due edizioni quotidiane che raccontano l'Italia. Una buona giornata da Alessandra Tedesco. Una nuova puntata di Italia in controluce è dedicata oggi ai risultati delle elezioni amministrative. Dei risultati nelle grandi città si è parlato tanto, dai ribaltoni al ballottaggio di Milano e Napoli alla vittoria del centrosinistra al primo turno a Torino. Noi però siamo andati in giro per l'Italia per conoscere i nuovi sindaci usciti dalle urne, anche quelli delle città più piccole. Partiamo da Siena. Il nuovo sindaco è Franco Ceccuzzi. Nel suo sito internet racconta: «Ho respirato fin da piccolo la politica, quando mio nonno Eduino, comunista, prima mezzadro, poi operaio agricolo, mi portava con sé alla Casa del Popolo di Abbadia di Montepulciano». Prima ancora delle elezioni, a marzo, Ceccuzzi era salito agli onori della cronaca per aver attaccato duramente il ministro del turismo Brambilla, la quale aveva fortemente criticato il palio, cosa intoccabile, si sa, per un senese. Ma sentiamo l'intervista a Ceccuzzi realizzata da Jacopo Matano. Siena deve mantenere alta la qualità della vita, che l'ha sempre posta ai vertici delle classifiche italiane ed europee. Per fare questo, naturalmente, dobbiamo crescere dal punto di vista economico, perché noi abbiamo subito gli effetti della crisi, nessuno ne poteva essere immune, e anche Siena ovviamente ha avuto un rallentamento del suo andamento economico. E investire molto nel nostro stato sociale, perché abbiamo costruito in questi anni una rete molto forte dal punto di vista della solidarietà e del sostegno alle persone. La grande scommessa che abbiamo sulla prospettiva è la sfida per diventare capitale europea della cultura nel 2019. Restando sul tema della crisi e sul tema del lavoro, Siena la Rossa è anche la provincia che ha il più alto numero di precari nel centro-nord, il 92%. È una questione che riguarda soprattutto i giovani. Come intendete affrontarla? Sulla stabilizzazione del lavoro precario, noi abbiamo assunto un impegno, perché abbiamo depositato insieme al programma la carta di Siena della buona politica e della partecipazione, in cui ci siamo impegnati proprio a offrire posti di lavoro stabili e qualificati ai giovani, anche a remunerare gli stage, cercando di utilizzare delle risorse della regione toscana che colloca 200 euro a stage e aggiungendo se possibile anche risorse del comune. Parliamo invece del Monte dei Paschi di Siena. Il suo predecessore Maurizio Senni è un dirigente di questa banca e il rapporto tra l'amministrazione, la banca e la fondazione negli anni passati è stato molto stretto. Come proseguirà con lei? Il rapporto sarà molto stretto. Noi abbiamo seguito e sostanzialmente sostenuto il percorso che ha intrapreso la fondazione per partecipare alla ricapitalizzazione della banca, un appuntamento importantissimo in vista di Basilea 3, pur mantenendo il 51%, che vuol dire non solo la senesità della banca, che per quanto riguarda questa città è fondamentale, ma anche l'indipendenza strategica in un mercato in cui le banche commerciali devono competere in condizioni sfavorevoli rispetto alle altre banche, e soprattutto in un mercato nel quale vogliamo anche conservare l'italianità delle banche. Per questo Siena non pensa solo a se stessa nel mantenere la senesità del monte, ma pensa anche all'Italia e alla sua economia. Ci sono state preoccupazioni per il fatto che, insomma, è vero che si rimane sulla stessa amministrazione, però c'è un cambio della guardia, se vogliamo, al vertice dell'amministrazione comunale. Beh, diciamo che abbiamo chiamato la nostra campagna elettorale Bella Meravigliosa 2.0 proprio per significare questi due aspetti. Bella Meravigliosa la mia città è una canzone popolare senese che trasmette l'amore dei senesi per la città, ma anche una continuità storica che a Siena deve sempre andare avanti. Il 2.0 vuol dire che questi valori e queste tradizioni possono aiutare a vivere meglio la contemporaneità. In questo senso la tradizione di buon governo che viene dal 1200-1300 raffigurata da Ambrogio Lorenzetti nella sua famosissima allegoria si deve sposare anche con un po' di discontinuità, che io ho cercato di far comprendere che era assolutamente necessaria. Parliamo adesso del turismo. Sul palio di Siena ci sono state le solite polemiche, adesso però c'è anche un ministro del governo, il ministro Brambilla, che si è schierata contro. Come gestirà questa situazione lei da nuovo sindaco? Beh, io vorrei invitare tutti i rappresentanti dello Stato, dal governo a ogni qualsiasi altra funzione, a considerare che il palio, alla stregua del cinema di Venezia e del carnevale, è la manifestazione che ha più penetrazione mediatica nel mondo e che dà una visione dell'identità italiana, secondo me, positiva, e che certamente è un veicolo forte di promozione per il nostro paese. Vorrei ricostruire, diciamo, un momento di unità attorno al palio. Ci riuscirà anche con gli animalisti? Beh, da questo punto punto di vista io li inviterei a valutare seriamente e con obiettività tutto ciò che questa città ha fatto nei confronti della tutela dei cavalli e l'amore che questa città esprime nei confronti dei cavalli. Credo che non si possa riscontrare in nessun'altra parte d'Italia. È la nostra prima preoccupazione. Siamo alla mia ultima domanda: quale sarà il primo provvedimento che firmerà dal nuovo sindaco? L'atto al quale vorrei lavorare nei primi 100 giorni, per riprendere i temi che abbiamo affrontato prima, è il patto per il lavoro che vorrei firmare con la regione, con la provincia e con tutte le organizzazioni sociali, da Confindustria ai sindacati alle associazioni di categoria, proprio perché vorrei mettere nero su bianco un impegno comune, pubblico e privato, per muovere l'economia della città. E dal sindaco di Siena Cecuzzi veniamo al nuovo sindaco di Rovigo di centrodestra, Bruno Piva. Al ballottaggio Piva l'ha spuntata con il 51,02% delle preferenze, staccando l'avversario Federico Frigato, fermo al 48,97%. Ma qual è stato il punto di forza di Piva? Che cosa lo ha portato alla vittoria? Sentiamo il neosindaco nell'intervista realizzata sempre da Jacopo Matano. Prima di tutto essere dentro di uno schieramento di centrodestra e soprattutto però, nel caso mio, di non essere un uomo della vita politica, ma ed essere il cosiddetto rappresentante della tanto adoperata società civile. Ecco. Perché lei esercita la professione di medico. Io esercito la professione di medico, sì. Si è detto Rovigo una delle città in cui il centrodestra ha tenuto. Credo una delle poche in Italia. Ecco, quindi il centrodestra ha tenuto, però è stata una vittoria, diciamo così, un po' atipica, perlomeno per i capoluoghi veneti. Lei è stato candidato con il PDL, non con la Lega, e nel suo programma elettorale si trova messi in secondo piano quelli che sono di solito i temi su cui la Lega costruisce il proprio consenso, come ad esempio quello dell'immigrazione. Diciamo che a Rovigo, sotto questo punto di vista, ci sono problemi legati all'immigrazione, però non sono magari così di immediata soluzione come in altre parti dell'Italia. Noi abbiamo chiaramente, come tutte le città, anche qui problemi legati agli extracomunitari, però sono abbastanza assorbiti. Ecco. Tra i problemi più sentiti c'è quello della viabilità e quello dei parcheggi. Quello della viabilità è un grande problema, perché Rovigo è una città che si passa velocemente a piedi in bicicletta e invece diventa estremamente, pare un paradosso, questo più lungo il tempo per attraversarlo in macchina. Ecco. Quindi, in che modo cercherete di risolvere questo problema? Faremo una sperimentazione sul corso, apertura di alcune ore durante i giorni feriali. A questo proposito, Rovigo è considerata la capitale italiana delle multe, con circa 140 euro pro capite di contravvenzioni ogni anno. Che cosa intende fare su questo tema? È diventato un metodo per fare cassa? Ma su questo io non ho nessuna paura, nessuna remora. Se gli apparecchi di rilevazione della velocità sono tarati nella maniera giusta, sono in regola, infatti quelli che non erano in regola sono stati chiusi. Se il codice della strada dice che non si deve superare i 70 all'ora, non si supera i 70 all'ora. E le dirò anche, lo farò prima chiaramente, anticipando ai cittadini, che per esempio io farò una lotta contro l'uso del telefonino durante la guida. Senta, ho letto sul suo programma elettorale di questa idea dell'amico del quartiere. Ho scoperto poi che si tratta in realtà di un modo per reimpiegare quelli che possono essere dei cittadini disoccupati all'interno di mansioni da svolgere per il proprio quartiere, ma poi verrebbero stipendiati dal comune. Come funziona? Vorremmo adoperare che anche i cittadini, quelli che abitano in quartiere, inventino essi stessi artefici del loro abbellimento, del loro modo di vivere, ma migliore, insomma, superando anche tutte quelle categorie di volontariato, sia eventualmente anche tutti quei lavoratori tipo cassa integrati, operando eventualmente anche queste forme che esistono di voucher anche a disposizione delle amministrazioni pubbliche, sempre con gli strumenti che la legislazione ti dà a disposizione. Che cosa li mettete a fare? Nelle caserme c'era il minuto mantenimento, la piccola riparazione, aiutare i bambini all'uscita delle scuole, il taglio della siepe, dell'albero e soprattutto un'azione anche di vigilanza, di segnalazione. Qui c'è la buca, qua bisogna fare la lampadina rotta. Quindi una piccola risposta alla crisi che ovviamente ha colpito anche Rovigo e la sua provincia, che è una provincia del nord-est. A proposito di questo, affrontiamo ora un tema più grande, diciamo così, perlomeno per dimensioni, che è quello della centrale Enel di Porto Tolle, la cui riconversione a carbone è stata bloccata dal Consiglio di Stato. Lei ha firmato l'appello dell'azienda e dei lavoratori. Che significato ha il blocco della riconversione di Porto Tolle per la vostra città? Usciamo da una crisi che è quella dell'Agrimeca, che ci ha colpito da vicino perché praticamente alle porte della città, quindi sappiamo quanto questi problemi siano importanti. siamo anche sensibili ai problemi di salute, perché all'aria pulita ci teniamo anche noi. E io, siccome sa di professione, faccio il medico, io ho sempre detto che abbiamo due polmoni, uno a destra e uno a sinistra, e sia quello destro che quello sinistra vogliono respirare aria buona. Sappiamo anche che se erano stati fatti dei progetti, io non penso che lei ne avesse pensato di buttare via dei soldi nella centrale di Polesine e Camerini. E questo era il nuovo sindaco di Rovigo, Bruno Piva. Italia in Controluce finisce qui. Vi ricordo che siamo presenti su Facebook e Twitter. Per scriverci l'indirizzo è controluce@radio24.it. Torniamo domani mattina alle 6:30, sempre su Radio 24. Una buona giornata da Alessandra Tedesco.